altro giorno. Morirei per riaverti con me, anche solo un secondo ricordo. Tempi difficili dove cresce se non riesci, il fondo non ha limiti. Come perdersi per ritrovarsi, perdere gli affetti per diventare grandi. Ma con i rimpianti vaffanculo, ne sono uscito solo, con tutto il mondo contro, nessuno con conto. Le cicatrici che permangono, tempo che rimarginano forse, un giorno o l'altro. Raccolgo le forze, non mi volto nel vortice, le basi sono solide. Ho le solite figure retoriche per raccontare emozioni stetoscopiche. La mia sicurezza è solo la coscienza di quando fai finta che sai cosa la vita riserva. È un altro giorno, prima l'alba poi il tramonto. Si alternano veloci, io non me ne rendo conto. Confondo oggi con ieri, domani che farò non lo so. Ora c'ho troppi pensieri, sono veri quei sogni di ogni notte, che poi ti svegli odi sta realtà che anche oggi ti sconvolge. Ma sei forte, rinchiudi in un cassetto un sogno e lo riapri per poi stringerlo quando ne hai bisogno. Senti in fondo un istinto irrefrenabile, afferri l'inafferrabile, una meta stabile, fissa anche se raggiungibile, un dirigibile, vola, non si sgonfia, non perde quota mai, anche quando si sconforta, porta dentro al cuore quel dolore immane. Ma poi c'è l'amore che prevale, che lo assale, ferma lo squilibrio atriale, ti riporta in linea assiale. Ma in fondo poi chi ci vuole stare, lasciami sognare tra presente e passato, il futuro non l'ho programmato. E se poi sbagliato scusami, e se poi sofferto baciami e dimentichiamo ieri. Guardami negli occhi, dimmi che non sono veri i miei pensieri, prendimi per mano che ti porterò lontano nel mio mondo strano. E ora attento a dove tocchi con le mani, forse sentirai un lamento. Questo mondo fragile è fatto di sentimenti. È un altro giorno che il mio petto brucia, con gli occhi la luce di chi spinge non rinuncia. La fronte suda, dolore, c'ho la testa distrutta, ma non mollo mai la presa, se devo dirla tutta. Sono notti intere che parlo coi miei demoni, immagini sfocate di amori grandi e piccoli. Sento voci nella testa, dicono vieni qui, seguici, ma più li seguo più mi perdo nel beat. Labirinto della psiche, intingo e dipingo stile, cercando le risposte in questa notte senza fine. Fra nube, spine, magie, spettri senza volto, tira fuori le palle e sfonda il culo al mondo. Sono pronto, se rap chiama rispondo, caccia il mic che si fa frista fino al tramonto. Con i miei compagni in cerchio intorno, indopa come fable giorno, notte e giorno.